la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Porco boia. 11 luglio 2018, mamma mia. Come siamo in avanti. Inizia pure con la voce roca. Radio Onda Rossa. Schieriamo la voce di Radio Onda Rossa. 25 o'clock ai controlli dopo prove tecniche di trasmissione che salutiamo. Si inizia con Sonic Youth e Disconnection Notice. Vale a dire, avviso di disconnessione, staccate tutte le interfacce dal mondo esterno, dalle migliaia, milioni, miliardi di cose che dovete fare, che non vi va di fare, non vi va di portare a termine, non vi e non avete voglia di concludere. Perché come amavamo dire, definirci un po' di tempo fa, questa è l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione. Una sorta di carica batterie dove vi riponete in silenzio e fate il vostro carico di rabbia. Perché pure la rabbia è uno dei motori della storia. Creare e organizzare, diceva un vecchio slogan. La nostra rabbia. Mentre i flussi di denaro e di potere passano sopra a noi, sotto a noi, in mezzo alle nostre vite, ci scansano, ci levano. Se questa radio è una radio che denuncia tutto questo, che si oppone, che dà voce alle lotte che si frappongono a questi flussi di denaro potere, d'altra parte, come una delle tante utopie pirata, sta lì a significare che si può vivere anche altrimenti. Allora, quindi, Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale della modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa che c'è e vive, però perché voi la state sostenendo da 41 anni e rotti. E non dovete smettere certo adesso, dovete continuare. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. www.andarossa.info, andando a vedere su sottoscrivi, ci sta una paginetta intera con cui in cui trovate il numero che vi ho appena indicato, ma anche altri modi, altri percorsi da intraprendere per sostenere questa emittente, oltre che a la sterminata autoproduzione che la radio fa ogni giorno e la mette online delle sue trasmissioni, delle sue corrispondenze, delle sue nazionali, e più chi più ne ha più ne metta. Ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione, 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info, per disturbare il sottoscritto e mandare quelle che sono le vostre proposte. 06491750, usatelo. Illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. Dai. abbiamo iniziato con Grails. E cioè Emil Amos, Alex Jonol e Wim Zach Riles. Riles. Un lavoro che si discosta un po' dai lavori precedenti, soprattutto in quanto a lunghezza delle tracce, e che abbiamo avuto modo di presentarvi magari non in tutte le componenti, alcuni suoni sono forse le volte un pochino più facili, un pochino che cedono al pop, come dire, ma non certo quello di facile ascolto, insomma. O forse semplicemente perché Grails hanno cambiato un po' il baricentro degli ascolti e hanno spinto sempre in avanti rispetto alla possibilità di inventare qualcosa in termini di soluzioni sonore. Comunque, insomma, un album che invece, magari appunto ci abbia deluso un po' al primo ascolto, man mano sta guadagnando punti. E siccome la scorsa settimana si facevano alcuni paragoni, siamo andati a ripescare un lavoro del 2000 che mandammo già all'epoca in modo abbastanza continuativo ed esaustivo. Si tratta di Lateralus dei Tool. E cioè Danny Carey, Justin Cancellor, Maynard James Keenan e Adam Jones, ovviamente. Questa era l'inizio praticamente del disco, c'era The Graggia, la prima traccia, poi Eon Blue, Apocalypse e The Patience. E proprio queste due tracce andiamo ad ascoltare, quindi Tool a Radio Onda Rossa, 25 O'Clock, da lontano, ormai anno 2000. We don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange. That I should be out of here, locked up in a cage. You don't know what the hell's up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit. You can suck my dick and fucking like it. You're my company at the body, money, anything. Money at the party, money anyway. Me and my company at the party, money going to sleep. Me and my company at the party, money anyway. Me and my company at the party, money anyway. Me and my company at the party, money going to wait. Me and my company at the party, money going to sleep. Me and my company at the party, money anyway. dal momento che abbiamo introdotto con Tool l'argomento metal anni 90, non potevamo che mandare del 1994 quello che viene più o meno universalmente riconosciuto come il primo album nu metal, e cioè il disco Korn, dei Korn. E cioè Jonathan Davis alla voce e al basso, Fiddley, Gianmanchi Schaffer alla chitarra, Brian alla chitarra e alla voce, Davis alla batteria e alla voce. Insomma, quando ancora i Korn non andavano nemmeno. Non mettevano nemmeno il cognome, benché poi questo disco del 94 fosse prodotto dalla Epic e distribuito dalla Sony. Prima ancora che il nu metal fosse una roba per ragazzini brufolosi. E non una costola devastante del crossover, che comunque anche in quegli anni e non proprio non più giovanissimi ci faceva scuotere il capoccione. Insomma, fu anche quello un fenomeno che, per quanto ben presto divenne pasto per le grandi major discografiche che ne stillarono ogni goccia, ogni stilla, appunto, di vitalità. Comunque, seppe produrre, seppe essere il suono di un'epoca. 06 491 7500, 23:24 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Andiamo ancora un po' di anni indietro. ...1989... il terzo disco, se non andiamo errati, per Neurosis. Quarta traccia da questo lavoro, The World is Slow. To attend Neurosis a Radio Onda Rossa, dai! We'll be right back. ci concediamo un attimo di tregua, anche perché presentiamo un lavoro uscito nel 2018 che abbiamo il piacere di mandare in onda, con 4 tracce, tutte e 4 molto lunghe. Secondo lavoro. Per l'Ira del Baccano, i romani, l'Ira del Baccano. Ci siamo già spertigati in lodi riguardo a questa band. Sperando e credendo che abbiano un ascolto ben più ampio di quello che possano godere in una città come Roma, una band veramente di livello. È un lavoro di grande livello questo per l'Ira del Baccano. La scorsa puntata abbiamo ascoltato la seconda traccia, che è anche la title track insieme alla prima. Paradox Hourglass si chiama il disco, appunto le prime 2 tracce sono Paradox Hourglass, parte 1 e parte 2. La terza traccia è Abilene, The Trip 2, dove Abilene probabilmente è una città degli Stati Uniti, ma boh. Perciò l'Ira del Baccano a Radio Onda Rossa 25 o'clock, eccoli. Parte il trip. Undici minuti. queste erano le creature in fiamme di King Buzzo, Dale Clover, Stephen McDonald, in arte Melvins. E siamo stati veramente tentati di partire da qui e mandare solo Melvins fino alla fine della scaletta, così almeno avevamo, ci è balenata l'idea. Preparando la selezione di questa notte, soprattutto accorgendoci che uno dietro l'altro un comparto intero della personale discoteca è occupata da lavori dei Melvins, non tutti, perché loro producono, riproducono, ripubblicano, rifanno. Ogni volta è uscita qualcosa di nuovo, semi nuovo, vecchio. Probabilmente una delle band con il suono più caratterizzante per quanto riguarda questa fascia. Del mercoledì notte 06 491750, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, 23:51 minuti primi. Per ora non diamo seguito al nostro proposito, cioè quello di mandare solo Melvins, ma un'altra cosa dei Melvins di qualche tempo fa, dopo questo lavoro, Death Love, 2 CD prodotti nel 2017. Dicevamo qualcosa dei Melvins, lo mandiamo ancora, ritorniamo al 2013. Forse, forse, ma molti forse, uno, il disco preferito dal sottoscritto. Bah, in realtà è impossibile preferire qualcosa di Melvins. Però qui si cimentano in una delle cose che gli riesce meglio, cioè quella di fare delle cover, prendere degli originali, stravolgerli e poi riproporceli, sì, tipo i peperoni, insomma. E in questo caso vanno a riproporre uno storico, un classicissimo, In Every Dream Home Heritage, The Roxy Music, però cantato dall'assurda voce evocativa di Jello Biafra. E sì, perché una delle caratteristiche di questo lavoro del 2013, Make It Cheeseburger, oppure come amano i Melvins riempire di scritte i loro lavori, per cui è impossibile in realtà. Everybody Loves Sausage. È impossibile andare a capire qual è il titolo del lavoro, comunque. Melvins, ancora. Dream home, a heartache.

day long as I cook any home bacon for you. Sticking his nose up the boss's ass for you. He wants to call you out. In. Mama. Out. You gotta be good to your man. You gotta make him feel good. That's your job. You gotta make him feel good. You know how to do it. Out. You have to use your mouth. Out. Look into his eyes. In. Take him into the bedroom. In. Lay him down. Out. You have to make him feel good. Out. That's your job. In. You gotta make him feel good. Out. In. And now you're doing it. Out. You're using your mouth. In. And you're making him feel good. In. Listen to his breathing. Out. In. Out. In. Out. You're making him feel good. He's pat- e siccome non si può non mandare due volte baby. Now. Melvins senza mandare per due volte anche Henry Rollins. Higher. Higher. E siccome underneath. Con Alessandro abbiamo pillow decisamente imboccato la marcia indietro come lui ci suggeriva e come ci eravamo ampiamente accorti. The whole thing, cut it off. Go to the kitchen, wash that shit out of your mouth. Cut it off, the whole thing. Do it tonight. Put it in an envelope, send it to me, Rollins, P.O. I have to kill you. Beach, California, 90278, USA. Men are pigs. Yeah, cut it off. Do it tonight. Dicevamo, I have come to kill you. Can you speak? Can you speak this? I have come to kill you. Henry Rollins che faceva uscire un disco nel lontano, lontano, poi ve lo dico. Lo pubblicava insieme a un altro in cui you know abilmente tramutava la sua identità sessuata in Henrietta Collins, the wife beating children haters. Sky falls down when he puts his foot down. A suo modo anche questa è una cover. Can you speak this? Waving his Uzi right in your face. I have come to kill you. I have come to kill you. Looky here, mom, now looky here, dad. Remember the good times you once had. You should have never left home, left well enough alone. Now you're sitting in a dark house waiting by the phone. I have come to kill you. I have come to kill you. The whole world burns, the whole world dies. Stuck a knife in love and burned out its eyes. I have come to kill you. I have come to kill you. Art in heaven, hallowed be thy name. Smoked some dust and killed his kids, and some say he's insane. I have come to kill you. I have come to kill you. Nigger honky smoking cross, burn the world down. Cop, robber, token bus, burn the world down. Mother, father, bad trip, burn the world down. Hate, love, all the same, burn the world down. I have come to kill you. alright. Keep on killing, you can kill all night. Keep on killing and it feels alright. Keep on killing and it feels alright. Rollins Uberales Incorporated, we have only your best interests in mind. You want to go the distance. You want to walk a mile for a camel. You can't wait for Miller time. You want that bud to be for you. And why shouldn't it be? You work hard. You deserve it. All day long you're out there with your nose wedged tightly in the crack of your boss's ass. At the end of the day you're frontman the bench. You want to go home and beat the little Black Flag. Good things in life. And I la scena di Washington DC degli anni 80, Harry Rollins. Personally want to give it to you. I want you to have it all. You want peace and quiet? I'll give you peace. Qui con the Harry Rollins band. From damnation, I'll give you salvation and deliverance from damnation. And while I'm at it, I'll deliver you from alienation. E questo è il suo comizio. The generation gap, the fast rap, the love trap, the slow mind. Che l'ha portato ad appoggiare Sanders nella recente campagna elettorale americana che ha visto appunto Sanders opporsi alla Clinton. Shove it down your throat. Sing with us now. Sanders che praticamente nel panorama americano nordamericano risultava un rivoluzionario benché fosse un socialista, come dire. Ma in quel paese essere socialisti è come essere bollati da una sorta di malattia infettiva. Tant'è che ha dato filo da torcere alla Hillary. Questo è rock and roll ai confini con rockabilly, The Misfits. The Hunger, gli affamati, e poi Joe Spencer, Blues Explosion. Cool V. Wow. Wow, what a loser. Zip, zip, zip, zip, zip. Cool V. He's kind of groovy. Groovy. He's freaky. Cool V. Viva le slide qui e guitar Joe Spencer Blues Explosion. The Bomb Machine, 20 minuti dopo la mezzanotte. Io sono tutto ciò che ho e ci serve da base per presentare il Cluster Fest. Parco nell'energia Vina Venestina 173 11 14 luglio presso il centro sociale occupato autogestito ex SNIA dalle ore 22. 11 luglio, e cioè questa sera, scuola di San Vito dei Normanni alle 12 luglio. Non vedo santi ma uomini stanti. Ciancia via circuito live band. Hey, hey. 13 luglio. Blood 77. Hey, hey. Plutonium Baby, Wendy. Tom La Muerte, The Diggers da Pisa. E poi il 14, serata funky. Fancallisto and the Orange Funky, appunto, abbiamo detto, Parco d'Energia, via Prenestina 173, qui a Roma. Con la notte negli occhi dei dannati io seguo la via e non rivolgo il mio sguardo. E andando a presentare appunto la serata del... del 13 luglio, Raw Rock and Roll volume 2, The Revenge, Plutonium Baby, Shifai Garage da Roma. Blood 77, Jagger Bomber da Formia e il buon Simone Lucciola, dai. Wendy, cazzutissimo rock and roll da Roma, special guest Dom La Muerte, The Diggers, rock and roll legend da Pisa. La via tra frantumi di sogni come un cane randagio, io sono tutto ciò che ho. Ovviamente all'ex SNIA sono allestiti vari banchetti, vari stand per consumare cibi a chilometro zero, come anche provenienti dalle cucine etniche un po' di tutto il mondo. Puntuali, perché i concerti alla SNIA debbono iniziare puntuali. E dato che abbiamo parlato di questa serata, non possiamo fare a meno di mandare il cazzutissimo rock and roll dei Wendy da Roma, presentato il loro disco qua a 25 o'clock a Radio Onda Rossa. Disco che si chiama Idols and Goods e di cui presentiamo proprio la seconda traccia, Idols and Goods, Wendy. We'll be right back. remember well. We were in a club. I saw you right away among the crowd, and I knew you'd tell me to stand up. I didn't need any idol. Didn't need any god. I didn't need any idol. E io non c'ho bisogno di nessun dio e di nessun idolo. I just needed someone to start a fire. Questa era Simone dei Blood 77 e questa del 13 di luglio è in qualche maniera una sua creazione, la mette, presenta Pro Rock and Roll. Parlato di un baby, Blood 77, Wendy e Don La Muerte and the Diggers in quel della SNIA. Quel del Cluster Fest. Madonna, quindi dal fottuto rock and roll passiamo a un fottutino. Lo-fi proveniente dagli Stati Uniti prima della chiusura. 25 o'clock, 31 minuti dopo la mezzanotte. Onda Rossa. (06) 4917 50 87 9 della modulazione di frequenza. Suoni che devastano. Rumori che animano. Pavement. We have noi costruiamo il muro per restare liberi. They should walk, my children, what do we have that they should walk? What do we have that they should walk? We have a wall to work upon. We have work and they have none, and our work is never done. My children, and the war is never won. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. We build the wall to keep us free, that's why. We build the wall, we build the wall to keep us free. We build the wall to keep us free. Eppure Billy Bragg in questa piccola filastrocca, in questa perla di saggezza, mette a nudo l'assurdità del nostro mondo. E in questo caso la sua poesia mette in mutande il re. E se il signor Salvini è già ridicolo di per sé, Billy Bragg ha la capacità, anche se questa roba non l'ha pensata certo per lui o soltanto per lui, ma per un modo di pensare di questo nostro, ma a questo punto ci tiriamo fuori di questo vostro mondo e di questo vostro modo di pensare. E come Billy Bragg ci domandiamo: ma come cazzo fa un muro a rendervi liberi? Come cazzo fa una rete, un recinto, una barriera a rendervi liberi e libere? Trentanove minuti dopo la mezzanotte, Onda Rossa 25 o'clock. Con Tortoise. Sotto la nostra voce ce ne andiamo. Quando ormai è il 12 luglio 2018 e vi lasciamo in compagnia della compagna automatica con le sue selezioni e con le sue repliche fino a domani mattina alle 8, quando riprenderanno le trasmissioni in diretta dalla radio con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. La consueta programmazione del giovedì, calcolando anche che siete in luglio e che ce la prendiamo un po' più comoda e i tempi sono un po' più dilatati. Comunque, rassegna stampa domattina fino al GR dell'ora di pranzo e poi lo spazio comunicazione, poi tutta scena, cinema e ancora Attica Blues, la schiena del sol. Mezzedes del giovedì. infine a chiudere la programmazione i cuginetti di Apostasia. Bella Fongis, bella Paizo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che il muro non li rende liberi, cioè costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri di reclusione, di contenimento per migranti, compresi i ghetti, luoghi dove in qualche maniera, volontariamente o involontariamente, vengono relegati in quanto forza lavoro brutale, da dedicare alle occupazioni più umili, benché non si può ridurre una vita a mera forza lavoro a sole braccia e forza. Perché la vita c'ha ben altre fantasie e ambizioni, che banalmente sono quelle di vivere. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, probabilmente siamo in vena, per cui anni 80, anni 90, robe vecchie. Punto bella così, ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. Sister. share our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.